Il terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Il giorno dopo Giovanni Drogo comandò la guardia alla ridotta nuova. Era questo un fortino staccato a tre quarti d'ora di distanza dalla fortezza, in cima a un cono di roccia incombente sulla pianura dei Tartari. Era il presidio più importante, completamente isolato, e doveva dare l'allarme se qualche minaccia si avvicinava. Drogo uscì alla sera dalla fortezza al comando di una settantina di uomini. Tanti soldati occorrevano, perché i posti di sentinella erano 10, senza contare due cannoniere. Era la prima volta che gli metteva piede al di là del passo. Praticamente si era già fuori dal confine. Giovanni pensava alle responsabilità del servizio, ma soprattutto meditava il sogno su Angustina. Questo sogno gli aveva lasciato nell'animo una risonanza ostinata. Gli pareva che ci dovessero essere oscuri collegamenti con le cose future, benché lui non fosse specialmente superstizioso. Entrarono nella ridotta nuova, si fece il cambio delle sentinelle, poi la guardia smontante se ne andò e dal ciglio della terrazza Drogo stette ad osservarla che si allontanava attraverso i ghiaioni. La fortezza di là appariva come un lunghissimo muro, un semplice muro con dietro niente. Le sentinelle non si accorgevano perché troppo lontane. Solo la bandiera di tanto in tanto era visibile quando veniva agitata dal vento. Per 24 ore, nella solitaria ridotta, l'unico comandante sarebbe stato Drogo. Qualsiasi cosa fosse successa, non si potevano domandare aiuti. Anche se fossero arrivati nemici, il fortino doveva bastare a se stesso. Il re medesimo, fra quelle mura, per 24 ore, contava meno di Drogo. Aspettando che venisse la notte, Giovanni restò a guardare la pianura settentrionale. Dalla fortezza non ne aveva potuto vedere che un piccolo triangolo per via delle montagne davanti. Adesso la poteva invece scorgere tutta, fino ai limiti estremi dell'orizzonte, dove ristagnava la solita barriera di nebbia. Era una specie di deserto, lastricato di rocce, qua e là macchie di bassi cespugli polverosi. A destra, in fondo, una striscia nera, poteva essere anche una foresta. Ai fianchi l'aspra catena delle montagne. Ve ne erano di bellissime, con sterminati muraglioni a picco e la vetta bianca per la prima neve autunnale. Eppure nessuno le guardava. Tutti, Drogo e i soldati, tendevano istintivamente a guardare verso nord, alla desolata pianura, priva di senso e misteriosa. Fosse il pensiero di essere completamente solo a comandare il fortino, fosse la vista della disabitata landa, fosse il ricordo del sogno di Angustina, Drogo sentiva ora crescergli attorno, col dilatarsi della notte, una sorda inquietudine. Era una sera di ottobre di incerto tempo, con chiazze di luce rossiccia disseminate qua e là sulla terra, riflesse non si capiva da dove e progressivamente inghiottite dal crepuscolo colore di piombo. Come al solito, entrava al tramonto nell'animo di Drogo una specie di poetica animazione. Era l'ora delle speranze, e lui ritornava a meditare le eroiche fantasie tante volte costruite nei lunghi turni di guardia e ogni giorno perfezionate con nuovi particolari. In genere pensava a una disperata battaglia impegnata da lui, con pochi uomini, contro innumerevoli forze nemiche, come se quella notte la ridotta nuova fosse stata assediata da migliaia di Tartari. Per giorni e giorni lui resisteva. Quasi tutti i compagni erano morti o feriti. Un proiettile aveva colpito anche lui, una ferita grave, ma non tanto, che gli permetteva di sostenere ancora il comando. Ed ecco, le cartucce stanno per finire. Lui tenta una sortita alla testa degli ultimi uomini, una benda gli fascia la fronte e allora, finalmente, ecco arrivare i rinforzi. Il nemico sbandarsi e volgere in fuga, lui cadere sfinito stringendo la sciabola insanguinata. Qualcuno, però, lo chiama. «Tenente Drogo! Tenente Drogo!» chiama, lo scuote per rianimarlo. E lui, Drogo, apre lentamente gli occhi. «Il re!» Il re in persona è chinato su di lui e gli dice: «Bravo!» Era l'ora delle speranze. E lui meditava le eroiche storie che probabilmente non si sarebbero verificate mai, ma che pure servivano a incoraggiare la vita. Certe volte si accontentava di molto meno, rinunciava ad essere solo lui l'eroe, rinunciava alla ferita, rinunciava anche al re che gli diceva bravo. In fondo sarebbe bastata una semplice battaglia, una battaglia sola, ma sul serio, caricare in grande uniforme ed essere capace di sorridere precipitando verso le facce ermetiche dei nemici. Una battaglia. E dopo forse sarebbe stato contento per tutta la vita. Ma quella sera non era facile sentirsi un eroe. Le tenebre avevano già avvolto il mondo, la pianura del nord aveva perso ogni colore, ma non si era ancora assopita, come se qualcosa di tristo vi stesse nascendo. Erano già le 8 di sera e il cielo si era tutto riempito di nubi quando, a Drogo, parve di scorgere nella pianura, un po' a destra, proprio sotto la ridotta, una piccola macchia nera che si muoveva. Devo avere gli occhi stanchi, pensò. A forza di guardare ho gli occhi stanchi e vedo delle macchie. Anche un'altra volta gli era capitato lo stesso, quando era ragazzo e stava alzato di notte a studiare. Provò a tenere chiuse per qualche istante le palpebre. Poi rivolse gli sguardi agli oggetti attorno, a un secchio che doveva essere servito per lavare la terrazza, a un uncino di ferro sul muro, a un panchetto che l'ufficiale di servizio prima di lui doveva essersi fatto portare lassù per stare seduto. Solo dopo qualche minuto tornò a guardare in basso, dove poco prima gli era parso di scorgere la macchia nera. Era ancora là e si spostava lentamente. «Tronk!» chiamò Drogo in tono agitato. «Comandi, signor tenente!» gli rispose immediatamente una voce tanto vicina che lo fece trasalire. «Ah, lei è qua!» disse e prese respiro. «Tronk, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di vedere qualche cosa che si muove laggiù in basso!» «Sì, signore!» rispose Tronk con voce regolamentare. «È già da parecchi minuti che la sto osservando.» «Come?» fece Drogo. «L'ha vista anche lei? E che cosa vede?» «Quella cosa che si muove, signor tenente.» Drogo si sentì rimescolare il sangue. «Adesso ci siamo», pensò, dimenticando completamente le sue fantasie guerriere. «Proprio a me doveva capitare. Adesso succede qualche pasticcio.» «Ah, l'ha vista anche lei?» domandò ancora, nella sorda speranza che l'altro negasse. «Sì, signore», fece Tronk. «Saranno 10 minuti. Ero andato da basso per vedere la pulizia dei cannoni. Poi sono salito qui e l'ho vista.» Tacquero entrambi. Anche per Tronk doveva pure essere un fatto strano e inquietante. «Che cosa dice che sia, Tronk?» «Non riesco a capire. Si muove troppo adagio.» «Come troppo adagio?» «Sì, pensavo che potessero essere i ciuffi delle canne.» «Ciuffi? Che ciuffi?» «C'è un canneto laggiù in fondo.» Fece un segno verso destra, ma era inutile perché nel buio non si vedeva niente. «Sono piante che in questa stagione ci vengono dei ciuffi neri. Alle volte il vento li stacca, questi ciuffi, e siccome sono leggeri, volano via. Sembrano dei piccoli fumi.» «Ma non può essere», aggiunse dopo una pausa. «Si muoverebbero più svelti.» «E che cosa può essere allora?» «Non capisco», fece Tronk. «Uomini sarebbe strano. Verrebbero su da un'altra parte. E poi continua a muoversi. Non si capisce.» «Allarmi! Allarmi!» gridò in quel momento una sentinella vicina. Poi un'altra ancora. Anch'esse avevano scorto la macchia nera. Dall'interno della ridotta accorsero immediatamente gli altri soldati, non di turno. Si ammassarono al parapetto, incuriositi e con un po' di paura. «Non lo vedi?» diceva uno. «Ma sì, proprio qui sotto. Adesso è fermo.» «Sarà la nebbia», diceva un altro. «La nebbia certe volte ha dei buchi e si vede attraverso quello che c'è dietro. Sembra che ci sia qualcuno che si muove e invece sono dei buchi nella nebbia.» «Sì, sì, adesso vedo», si sentiva dire. «Ma c'è sempre stato quel coso nero lì. È un sasso nero, ecco che cos'è. Ma che sasso, non vedi che si muove ancora? Ma sei orbo? Un sasso, ti dico. L'ho sempre visto, un sasso nero che assomiglia a una monaca.» Qualcuno rise. «Via, via, via di qua! Tornate subito dentro!» intervenne Tronk, prevenendo il tenente, a cui tutte quelle voci aumentavano l'orgasmo. I soldati a malincuore si ritirarono nell'interno e si fece di nuovo il silenzio. «Tronk!» chiese Drogo, a un tratto, non sapendosi decidere da solo. «Lei darebbe l'allarme?» «L'allarme alla fortezza, dice.» «Dice di sparare un colpo, signor tenente.» «Ma non so neppure io. Le pare che ci sia da dare l'allarme?» Tronk scosse il capo. «Io aspetterei di veder meglio. Se si spara, alla fortezza si mettono in agitazione. E se poi non c'è niente?» «Eh già», ammise Drogo. «E poi», aggiunse Tronk, «sarebbe anche fuori del regolamento. Il regolamento dice che bisogna dare l'allarme solo in caso di minaccia, proprio così dice, in caso di minaccia, di comparsa di reparti armati e in tutti i casi in cui persone sospette si avvicinino a meno di 100 metri al confine delle mura. Dice così il regolamento.» Già, assentì Giovanni. «E saranno più di 100 metri, vero?» «Dico anch'io», approvò Tronk. «E poi, come si fa a dire che sia una persona?» «E che cosa vuole che sia, allora? Uno spirito?» fece Drogo, vagamente irritato. E Tronk non rispose. Thank you. Sospesi nell'interminabile notte, stettero Drogo e Tronk appoggiati al parapetto, con gli occhi fissi verso il fondo, là dove cominciava la pianura dei Tartari. L'enigmatica macchia appariva immobile, quasi stesse dormendo, e poco a poco Giovanni ricominciava a pensare che davvero non ci fosse nulla, soltanto un nero macigno assomigliante a una monaca, e che i suoi occhi si fossero ingannati. Un po' di stanchezza, null'altro, una stupida allucinazione. Ora sentiva perfino un'ombra di opaca amarezza, come quando le gravi ore del destino ci passano vicine senza toccarci e il loro rombo si perde lontano, mentre noi rimaniamo soli, fra gorghi di foglie secche, a rimpiangere la terribile ma grande occasione perduta. Ma poi, dalla valle buia, con l'andar della notte, risaliva il soffio della paura. Con l'andar della notte, Drogo si sentiva piccolo e solo. Tronk era troppo diverso per potergli servire da amico. Oh, se avesse avuto accanto i compagni, magari uno soltanto, allora sì, sarebbe stato diverso. Drogo avrebbe anche trovato la voglia di scherzare, e aspettare l'alba non gli avrebbe causato pena. Lingue di nebbia si andavano intanto formando nella pianura, pallido arcipelago, sopra un oceano nero. Una di esse si stese proprio ai piedi della ridotta, nascondendo l'oggetto misterioso. L'aria si era fatta umida. Dalle spalle di Drogo il mantello pendeva floscio e pesante. Che lunga notte! Drogo aveva già perso la speranza che potesse mai terminare, quando il cielo cominciò a impallidire e folate gelide annunciarono che l'alba non era lontana. E fu allora che lo sorprese il sonno. In piedi, appoggiato al parapetto della terrazza, Drogo per due volte lasciò ciondolare il capo, due volte lo raddrizzò di soprassalto, e infine la testa si abbandonò inerte e le palpebre cedettero al peso. Il nuovo giorno nasceva. Si ridestò perché qualcuno gli toccava un braccio. Riemerse adagio dai sogni, sbalordito dalla luce. Una voce, la voce di Tronk, gli diceva: «Signor tenente, è un cavallo!» Ricordò allora la vita, la fortezza, la ridotta nuova, l'enigma della macchia nera. Guardò subito in basso, avido di sapere, e desiderava vilmente di non scorgere altro che pietre e cespugli, nient'altro che la pianura, così come era sempre stata, solitaria e vuota. La voce invece gli ripeteva: «Signor tenente, è un cavallo!» E lui, Drogo, lo vide, inverosimile cosa, fermo ai piedi della rupe. Era un cavallo, non grande, ma basso e grossetto, di curiosa bellezza per le gambe sottili e la criniera fluente. Strana era la sua forma, ma soprattutto meraviglioso il colore, un colore nero splendente, che macchiava il paesaggio. Da dove era giunto? Di chi era? Nessuna creatura da moltissimi anni, se non fosse qualche corvo o biscia, si era avventurata in quei luoghi. Ora invece era apparso un cavallo, e si capiva subito che non era selvatico, ma una bestia scelta, un vero cavallo da militari. Forse solo le gambe erano un po' troppo sottili. Era una cosa straordinaria, di significato inquietante. Drogo, Tronk, le sentinelle e pure gli altri soldati attraverso le feritoie del piano di sotto non riuscivano a staccarne gli occhi. Quel cavallo spezzava la regola. Riportava le antiche leggende del nord, coi tartari, le battaglie, riempiva della sua illogica presenza l'intero deserto. Da solo non significava un granché, ma dietro al cavallo si capiva che dovevano arrivare altre cose. Esso aveva la sella in ordine, come se poco tempo prima fosse stato montato. C'era dunque una storia in sospeso. Ciò che fino a ieri era assurdo, ridicola superstizione, poteva dunque essere vero. Thank you. Drogo aveva l'impressione di sentirli. I misteriosi nemici, i tartari, appiattati fra i cespugli, nelle spaccature delle rocce, immobili e muti, coi denti serrati. Aspettavano il buio per attaccare. E altri intanto ne giungevano, un minaccioso formicolio che usciva lento dalle nebbie del nord. Essi non avevano musiche né canzoni, non spade scintillanti, non belle bandiere. Le loro armi erano opache perché non scintillassero al sole e i cavalli allenati a non nitrire. Ma un cavallino, questo fu l'immediato pensiero alla ridotta nuova, un cavallino era fuggito ai nemici e corso avanti a tradirli. Probabilmente essi non se ne erano accorti perché la bestia era fuggita dall'accampamento durante la notte. Il cavallo aveva così portato un messaggio prezioso. Ma di quanto tempo precedeva i nemici? Fino a sera Drogo non avrebbe potuto informare il comando della fortezza e intanto i tartari potevano farsi sotto. Dare dunque l'allarme? Tronk diceva di no. In fondo si trattava di un semplice cavallo, diceva. Il fatto che era giunto ai piedi della ridotta poteva significare che si era trovato isolato. Forse il padrone era un cacciatore solitario, spintosi imprudentemente nel deserto e morto o ammalato. Il cavallo, rimasto solo, era andato a cercare la salvezza, aveva sentito la presenza dell'uomo dalla parte della fortezza e adesso aspettava che gli portassero la piana. Questo appunto faceva dubitare seriamente che un esercito stesse avvicinandosi. Che motivo poteva avere avuto la bestia per fuggire da un accampamento in una terra così inospitale? E poi, diceva Tronk, aveva sentito dire che i cavalli dei tartari erano quasi tutti bianchi. Anche in un vecchio dipinto appeso in una sala della fortezza si vedevano i tartari montati tutti su destrieri bianchi, e questo invece era nero, come il carbone. Così Drogo, dopo molte titubanze, decise di aspettare la sera. Nel frattempo il cielo si era schiarito e il sole illuminò il paesaggio, riscaldando il cuore dei soldati. Anche Giovanni si sentì rinfrancare dalla chiara luce. Le fantasie dei tartari persero consistenza. Tutto ritornava alle proporzioni normali. Il cavallo era un semplice cavallo e alla sua presenza si poteva trovare una quantità di spiegazioni senza ricorrere a incursioni nemiche. Allora, dimenticando le paure notturne, egli si sentì improvvisamente disposto a qualsiasi avventura e lo riempiva di gioia il presentimento che il suo destino era alle porte, una sorte felice che lo avrebbe messo al di sopra degli altri uomini. Si compiacque di provvedere personalmente alle più minute formalità del servizio di guardia, come per dimostrare a Tronk e ai soldati che la comparsa del cavallo, benché strana e preoccupante, non lo aveva affatto turbato. E trovava questo molto militare. I soldati, a dir la verità, non avevano alcun timore. Il cavallo lo avevano preso sul ridere. Sarebbe loro piaciuto moltissimo poterlo catturare e portarlo come trofeo alla fortezza. Uno di essi chiese anzi il permesso al sergente maggiore, che si limitò ad un'occhiata di rimprovero, come a dire che sulle cose di servizio non era lecito scherzare. Thank you.